Alex Acceso che vi sto ascoltando, entro con quello, ho capito, non bene, niente di che. E comunque la Torre ha vinto 4-1. Oh, quindi quest'anno è in netta forma, già va bene allora, beh. Quindi la radio va bene, a posto questa, sì. Questa è la più bella che c'è, quella che piace più di tutti in assoluto, ma neanche con 4-4 uscivi così. 4-30, 4-40, si Romagna nulla è chiuso, vabbè, lo sai che lo posso dire, perché la esperienza che ho avuto io con questa radio non ce l'ha avuta nessuno, ve l'ho sempre fatto il paragone tra il 4-30 e il 4-40, in tutte le bande, in tutte, in MFM, in SSB, da tutte le parti. Sia recezione che trasmissione. Ci rimane nudo e crudo. No, no, ma non è distorta. L'altra volta un po' distorcevi, senza avere quel filtro. Adesso va benissimo, è perfetto. Beh, se non c'è il filtro M, non va. Per quello che ho fatto di tutto, se no potevo tranquillamente vendermela senza filtro, invece, come sai, non solo, ne ho preso anche un altro, sempre 4.30, quindi per me è la migliore dei vintage K, non c'è niente da fare, molto più meccanica, non crea problemi di VCO, ti può creare qualche stronzata, qualche fesseria. Immaginati, su questa mi pare sia la seconda volta o la terza volta che la entra in mano a quella persona che tu conosci, perché la prima volta aveva fatto un allineamento, cosa da niente, la seconda volta aveva cambiato il display che è nuovo, il frequenzimetro, perché gli ultimi decimali si erano bruciati, e la terza volta il filtro, quindi tre cazzate. Immaginate, al 440 l'ho mandato 4 volte da Bianconi, 4 volte da Bianconi, e poi 2 volte me l'aveva fatto quella persona là, la terza volta l'ho mandato da quello che ha fatto anche la tua, che l'ho fatto 757, immaginate a dire di noi a Gepesci. Una sale grande rugore. Ma guarda che tu devi essere pronto, caro Antonio, io te lo dico con molta sincerità. Con molta tranquillità e sincerità, perché io sono sincero, 440 è una radio che con l'andare del tempo crea problemi, ok? Ma quella tua ci metterà un bel po' di tempo prima di crearti problemi, però aspettateli, capito? Perché è stata revisionata prima di dartela, quindi però non pensare che te la puoi scampare, è un difetto di quella radio, non c'è niente da fare. Capito? Il lavoro va fatto bene, sono tutti professionisti per carità, però 2 anni, 3 anni e ti dai a piedi e ti buoni un sacco di denaro, un bene. Io a Giulio sono riuscito a farglielo fare proprio a tracco baratto, ho speso 90 euro di lavoro, più c'erano 20 euro di spedizione, capito? Però secondo dove lo mandi ci vogliono dalle 180 alle 220 euro per metterlo a posto, quindi e Giulio ce l'aveva, boh, non so quanti anni ce l'aveva, però quando gliel'ha dato Franco io l'avevo già revisionato, dato a Franco l'ho dato a lui, un paio d'anni era da piedi, quindi il problema è quello, 440 è una signora radio, ma è nata col problema del VCO e su questo non ci piove, a differenza del 430, del 140 e del 680. Allora, il primo giorno che mi rompo le scatole, c'è cosa faccio? Aspetta, ora si sta andando. Primo giorno che mi rompo le scatole, il biglio la vendo. No, tu non è che ti rompo le scatole, la devi vendere quando è guasta, che non te la compareggia nessuno. Tu prima che te la godi un altro po', poi te la vendi e ti compri un bel 140 e tu hai risolto il problema. Non puoi lasciare mesi, io mi ricordo quando lavoravo ancora, che sono stato un mese, 15 giorni esatti, un mese e 10 giorni fuori, perché ero a Cagliari per fare delle sostituzioni lavorative, ho lasciato il 140 spento, addirittura staccato perché non volevo rotture di balle, nessuno lo toccasse eccetera, staccato, messo dentro la radio, più di un mese, perché poi in linea di massima sono passati 2 mesi. Spento il conservato, sono andato, l'ho preso, l'ho acceso, funzionante. Se avessi fatto una cosa del genere al 4.40, a quest'ora non funzionava più. Io l'ho acceso tutti i giorni. E non c'entra niente, ma è un problema di VCO, capito? Accendi o non lo accendi, è un problema che ha, è nato così e basta, capito? È nato così e boh. Vabbè, comunque, dai. Io chiamo già che cosa è Roberto, io e Roberto ce lo sappiamo, fortunatamente siamo riusciti sempre a farlo fare con risparmio, diciamo, dai, già mi ha capito lui, però già te ne avevo lampato di anche se radio, Roberto. E allora quell'operazione che ha fatto l'ultima, ha cambiato tutto il kit dei condensatori, li ha messo quelli nuovi, grazie a Dio. Sono qualche anno e sta sempre andando. Tu immaginati questo, io l'ho preso, questo, e l'ho preso 10 anni fa da Walter Diabolik, 10 anni fa. Le uniche riparazioni che sono state fatte sono quelle, capito? Sono quelle che ti ho detto. Il VCO non è mai stato toccato, è originale la radio, è originale, capito? Quindi crea meno problemi, il 430 è una radio che crea molto molto meno problemi del 440, capito? 440 è così, io mi ricordo, ho comprato da Mario Notari nuovo, 440 appena uscito, andai lo stesso fuori per lavoro, tornai, la radio accendeva ed era tutta piena di puntini, l'ho riportata da Mario Notari, ho messo la radio che già va, e già lo so io cosa c'ho, non ti preoccupare. Me l'ha restituita senza dirmi neanche che il lavoro che aveva fatto, ok, perché era, praticamente me l'ha fatta passare in garanzia. Io poi con l'esperienza vissuta parlai con alcune persone, senza fare nomi, CH23 di Chiaramonti, il mio carissimo amico Carlo, e mi disse: guarda che quel problema che ti ha risolto è un problema molto serio su quella radio. E iniziai a capire, a prepararmi quale fossero le magagne di quella radio, e ne ha giù passato un bel. Vabbè, tengo un altro po', poi vediamo se riesco a trovare l'altro, come si dice, o di quei 140, dai. 140 ce n'è quanto ne vuoi, però no, se vuoi una radio superiore al 140 che non ti crea problemi, eccola qua, un bellissimo 430 ti devi cercare, poi magari quando sarà a tirare una mano io, come abbiamo fatto l'altra volta, e vedrai che si trova un bel 430, molto più meccanico, radio molto più maneggevole, più semplice, ma molto molto efficace, superiore nettamente, ma non lo dico io, lo dicono tutti quelli che l'hanno usata, radioattori compresi, che qualcuno ancora ce l'ha e la usa in HF, ce la mangiano le crude al 440, sia come ricevitore che come trasmettitore. Vai Roberto. Diciamo, prima le radio erano costruite con componenti, anche bastano i pomellini, le cose, gli interruttori, erano tutti di qualità superiore. Più col tempo sempre peggio stanno andando. Poi adesso ci sono queste SMD, se si fa qualche cosa, pigli e ci butti tutto, perché cambia la scheda e molte volte non ne vale la candela. No, ma oggi adesso è capitata quella radio là, non ne vale la candela, no, Roberto, ma no, non serve proprio a niente. Assolutamente, non serve a nulla, ma proprio a niente. Una volta che parte quei circuiti lì, è meglio che la radio la butti via, la metti da parte, te la usi a pezzi di cambio, capito? Come ti ha detto il nostro amico carissimo. E se te lo dice lui, stai pur certo che tecnicamente e statisticamente sa quello che dice. Avanti Antonio, io mi devo allontanare un attimo perché c'ho roba che stavo facendo e niente, beh, comunque sono qua, vi faccio compagnia ancora qualche minuto, per cui c'ho gente, sto preparando perché abbiamo la partita stasera. Speriamo non arrivi a vicino un villaggio di Mayenne, Roberto, per carità. Mi sa che per un po' di tempo, se riesco, vendo questo e mi prendo l'altra, quella radio lì mi voglio prendere, almeno voglio una radio robusta, voglio che mi duri anche nel tempo, capito? Se voglio fare questa operazione qua, te la faccio fare, non ti preoccupare, la troviamo qualcosa, lo abbiamo trovato quella, quella è bellissima, non c'è niente da dire, altrove. Stiamo parlando di una cosa tecnica, non è che stiamo, per carità, dicendo cose inerenti alla tua radio, quella è nuova, è trattata bene, che te l'ha data, è una persona seria, quindi non ci sono problemi, però il difetto che hanno tutti, compresa quella che avevo io in prima occasione, l'ho data, ma non sono rimasto mai a piedi perché avevo sempre questa, che avevo tolto il filtro, perché avevo fatto un'operazione e poi sono rimasto senza io. Fortunatamente un amico mi ha rimesso il filtro e la radio è tornata com'era, capito? Perché senza filtro NM questa non va bene, la devi trovare col filtro NM. Tutto qua. Avanti Roberto. Ok, yeah. Non c'è problema, lasciamo un attimo nel bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare. Avanti su 10, se no riprende tu Anto. Capa, comunque faccio così, faccio. Me la... Cioè, praticamente cosa faccio? Andendi, sì. Lo dibatti maschio, no? Un po' di radio. Radio bassa, vabbè, faccio così, me la, questa qui un po' me la prenderò e voglio una di quelle, voglio, capito? E che c'è questa, io ho capito che si la parte in baga puro. Sì, vabbè, tu l'hai pagato a prezzo pieno con le radio, oggi il valore con le radio è 350 euro, non di più, 300-350 euro, 140 lo paghi 250 euro, un 430 lo stesso, alla pari di un 440, 300 euro, 350, ma no, non di più, quella tu l'hai pagata così e vabbè, non so cosa dirti, però c'è chi la dà a 350, a 300, a 250, capito? Io ne ho venduto anche a 300 di 440, no? Che, però ognuno fa quello che vuole della roba sua, capito? Perché se andiamo a valutazione, la valutazione è quella, 250 euro, 140, guarda, è valutato molto di più il C80 perché c'è la scheda dei 6 metri, figurati, un C80 lo trovi anche a 400-450 euro, capito? Secondo chi te lo dà, a me non me la fatti nulla speculare su queste cose, non vivo di vendita di radio, ma ti ho regalato 15 di radio, vivo di tanto me la fatti. Va bene, avanti Roberto. Ma coso, il pace l'ha dato tu a coso, a Muros? Sì, sì, tutti i vintage che avevo li ho dati alla galleria d'arte. Quella per farlo. Sì, beh, quella non si scherza, quella è una bella galleria d'arte. Solo così potevo fare per, dico ogni tanto, magari andare a prendermi un caffè e vedere delle belle cose che ho avuto funzionanti e tutto, ma non solo, ogni radio aveva il suo microfono al tavolo. Bellissime, bellissime cose, sono contentissimo, continuo a dirlo, che sono gestito da lui perché è una persona veramente seria, una persona che cura le cose e le sa curare anche, capito? Le sa curare nel senso che se sono malate sa lui la medicina che ci vuole. Detto, è molto appassionato, soprattutto di quelli a valvole, almeno se ne vuole qualcuno che li può utilizzare. Dai. Ok, di nuovo a te Anto. Capa, se trovo qualcuno che me lo dà a posto, gli do questo, magari. E poi, vabbè, vediamo se c'è qualche differenza, mi bigliughito, almeno se mi dura nel tempo, capito? Guarda, io Anto non ti voglio, per carità, lo sai che siamo amici, ci possiamo dire quello che vogliamo, però tieni conto che io di 430 ne ho due, uno più bello dell'altro, Roberto l'ha visto, l'ultimo che ho comprato, nuovo, non ha un graffio, ma nuovo veramente, meglio di questo che sto usando, che è un po' più datato, ma io personalmente per l'esperienza avuta, io il cambio non lo farei tra 430 e 440, quello tu lo devi vendere, quando sei pronto me lo dici, te do una mano io, si vende, ti recuperi i quattrini e poi si compra, ma cambio non penso che lo faccia nessuno. Allora facciamo così, dai, vediamo di venderlo e poi lo compriamo, ne compriamo uno di così, ne compriamo, come hai detto tu, a posto di tutto, facciamo così, da. Non adesso, fra un po' di tempo lo facciamo. Si conferma, non ti preoccupare che già te la do io la mano, come abbiamo sempre fatto. Già non ti lascio, adesso tratta di chi che c'è una radio nuova e a posto, però non ti dimenticare sempre che non è che la puoi tenere tanti anni, anche se non ti la capire e poi a venderla è un problema. Vai Robè, dammi 2 minuti che metto a posto qua e mi devo spostare un secondo a vedere se tutto procede bene al forno. Ah, così. Ma tu cucini o chi c'è? Il cuoco c'è? Il cuoco, allora, c'è un artista in cucina lì. Assolutamente. No, c'ho roba che mi si può incasinare. C'è una coltella, devo tenerla a regime. Ok, lasciamo un attimo il bianco, vediamo se entra qualcuno, se no riprendi tu, Anto. Aspetta un attimo che chiamo la pizza, 2 secondi. Ehi, allora la prendi la pizza, perché tu macelli? No, oggi no. Sezione 10, c'è qualcuno? Qua. Avanti. Sono rientrato. Prova a parlare se questo è meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cioè, 9 e 10, diceva quella. Va molto meglio, almeno non mi fa sembrare tira la sensazione con la radio là, che ti mancano, quando non ti è mai capitato di avere le orecchie tappate, Antonio. Sto usando il 2009 adesso. Ma mi dava una sensazione di fastidio, nel senso quando c'è le orecchie, sembrava che avessi perso l'udito degli acuti. Eccomi. Oggi ho chiamato Oblix, è più buona. Oblix, non è quella della casa di lei? Eia. Chissà che non è lontano la casa tua. No, già me la portano, già. Loro fanno tutta la città. E ho già arrivi troppo ghiacciata. No, chi si, così niente, so demoni, so. Sì, c'era Saverio, sono andato spesso. Fino a un paio di anni fa ci andavo a prendere le pizze. Ma ha detto che si deve ripiazzare tutto, mi hanno detto. E Luca lo stava dicendo, l'ho sentito poco fa, lo stava raccontando. Padre Ballino è giunto. Tu non lo sai, ma sicuramente te ne rendi conto. C'è un bel di gente che ascolta a me, ogni tanto senti portantine, qualche fischio, qualche cosa, qualcuno che mette una portante e magari senti dei rumori sotto. C'è un bel di gente che ascolta, magari non ha voglia di entrare, però è un bel di niente. Se avessimo la possibilità di vederle, io penso almeno 7-8 persone in più ci sarebbero la sera quando parliamo noi. Più che sicuro. Io ve l'appoggio. Te la spingo, parola di gringo. Allora, come si fa? Anche per me era gente, me lo sai. Ogni tanto è in tavolo. È da Graziano, tanto per dire. Eccetera, qualcuno in PMR, posso usare la 27 usa il PMR, quindi siamo nuovi tutti e due, siamo a posto. Vabbè, dimmi, quando se ti piace più questa la modulazione del Gracci? Hai cambiato le clove. Eia. Questa è più bella, sì. Questo è il mitico Saverio, non c'è niente da fare. Vabbè, lasciamo questo, dici che parlo, se no mi si brucia tutto. Già sono qua in ascolto. Capo, dai, io adesso vado, che tra un po' arriverà la pizza, vado alla barca, la pizza. Almeno la doccia, che non posso uscire. Tu me l'ha fregato quello là, cazzo. Fa il culo a me con la volta che gliel'ho portato, cioè quando me ne sono pentito, lo pilotavo tranquillamente con l'alimentatore, cioè l'alimentazione del S80, era veramente bello quelle cose, questa lente, peccato. Registrato, beh, che se ti faccio passare poi io vado. Già lo troviamo, Antonio Saletta, non ti preoccupare. Quando c'è la radio già si trova. No, beh, io lo senso, al contrario, a modificare le radio K, i miei microfoni col K sono il 60, però so benissimo che sono microfoni eccezionali che si abbinano anche ad altre radio, quindi non c'è problema. Avanti break, mi è sembrato Claudio Di Muro, se buonasera, ben ascoltato, Bianco per me, ci sentiamo dopo, ciao. Sì, ciao Claudio, ben sentito, buon tutto, avanti al nostro. Io, ciao Claudio, ben sentito. Cazzo, lo sento strano oggi, Con il microfono normale, di solito lo sento a voce, lo sento. Sembra il padre, sembra che stia strillando le pecore. Salutoni Claudio, dai. Io vi devo lasciare, ci sentiamo dopo. E io, ciao Antonio. Ciao Antonio, ci sentiamo alle prossime. A riguardo del Tane, io da parte mia devo dire una cosa, il mio microfono che è sul pace, li ho provati tutti perché c'ho, a parte lo Shure, è l'unico microfono che non ho provato, ho provato il Tane, ho provato l'M600, l'M300, l'M43, il Q4, il Q5, tutti. Il miglior microfono per il pace è il Tane, ma di gran lunga. Ma il Tane l'ho proprio su una parada e va di schifo, come quello di Claudio. Cos'era? Sadetta va molto meglio. Poi Mario Sadetta lo provo da me e non va bene. Dipende anche dalle radio che riescono a modulare meglio, che si addicono un po' per un microfono rispetto a un altro. E vabbè, tutti i microfoni sono buoni. La questione è questa, è una timbrica della voce di una persona. Io ho una voce che è così, non ci posso fare niente. Se tu avessi conosciuto, a parte Claudio che esce con tutti i microfoni bene, la donna di Giuseppe Intrepido, tu non avresti detto così, perché quello quando usciva con quei microfoni anche normali, per dire le toccai, cosa del genere, sembrava che c'aveva un microfono amplificato, era una cosa allucinante. Io non riuscivo a capire che razza di voce c'aveva, c'aveva una timbrica lucida, ma veramente bella, bella, e poi sembrava amplificato, sembrava anche se usciva con microfono toccai, su originale, c'aveva un audio allucinante. Lui era l'unico a Sassari che penso che non lo imita nessuno, un audio del genere. Qualsiasi microfono usava usciva forte, tranne più tre, allora c'era le spalle 500, MB2, di tutti i microfoni usciva una bomba, usciva, era l'unico più forte che c'era a Sassari, e modulava la mendola, dalla fine di via mendola, tu immaginati tu, a Prodottoresse, arrivava un siluro a Prodottoresse, e anche a Sassari non solo l'altro. Purtroppo, vabbè, è morto e non ci possiamo fare niente, però era l'unica voce da Dio che sentivamo al baracchino, a parte la moglie che aveva una voce sensuale e che ti faceva alzare il pisello di 15 centimetri solo a sentirla. Vai, qua. Adesso aspetta di ricevere il pisello. Naturalmente, ciao carissimo, Alessio, come stai? È da molto che non ti sento. Tanto ti faceva, guarda. Se fosse entrata a pronto soccorso, se è sentata con quella cosa lì dritta, sentendo solo la voce sua con un portatile, cazzo. Vabbè, Claudio Muro, tu ci sei ancora? Sì, 5 Stelle, sì, mi stavo regolando un stazionale, mi stavo caricando il kit del tracciato, quindi il tratto oggi, il tratto, vabbè, non giro in bicicletta, sono entrato poco fa, capisco che sì, sto attento adesso, aspetto, mi stavo ascoltando, mi stavo, perché sono sicuro, capisco, e tornando stasera, dunque, l'SP è console 2, con il microfono della SP, sto uscendo bene, riprendi. Ti ascolto perfettamente, pulita e chiara. Sì, gli ho fatto quel lavoretto con il futuro per il microfono, gli ho messo quella roba di cotone nella capsula, era vuoto e questo microfono, non c'è la capsula, me l'ha fatto stasera, mi sto pranzo, e ho fatto alcune prove, mi sono ascoltato prima con portatile, poi con quella piazzetta SPR, l'ho collegata al computer nell'altra stanza, e ho visto che avevo la mia voce naturale, quindi fa tutto così, memorizzati che quella radio si addice a quel microfono, così non sbagli. Vai Antonella. Infatti lo sento con il microfono normale, di solito c'è l'audio che sembra che stia strillando come il padre, capito? Oggi lo sento calmo, sembra meno agitato, la verità. E Natalino cosa hai combinato invece? Questa voce strana? Natalino, come mai c'hai questa voce strana tu? Ma sei addormentato? No, cosa ha addormentato? Con il cazzo mi volevo dire. No, negativo. Ma invece, ho cambiato microfono, cos'è? No, sempre il solito. Si sento diverso, un po' più squillante. Perché si è messo, ho capito, dalla tira delle monsoda, capito, dentro al microfono, e quindi di fare la cosa, una parabola acustica. Quando fai così ti temo, Antonio. Ah, vero. Ui, se andiamo bene. Per carità, perca. Provato vai con la roba lì. Qualcuno che c'è per quella frequenza di là. E l'ho attaccato all'antenna, già sento tutto. Hai visto, te l'ho detto io. Te l'ho giurito, io da qui sentivo tutto. Quindi figurati tu. Sì, vabbè, antenna sua, Bighele. Te l'ho detto, se tu attacchi l'antenna alla macchina, quella geggio, sai come arrivi di qua? Arrivi forse solo che il problema è che ho l'antenna io di sopra che è incasinata. Adesso lunedì se non piove vado a mi piglio la punta da 16 per fare due fuori, ci piazzo le come si chiama, poi 27 mi piglio il palo e mi metto la cosa, l'ex 300 mi piazzo sopra il tetto, almeno non devo stare a rompermi le palle cazzo di volta venire Dio, metà del centro di gente, metà no, hai capito? La pulisco bene, me la smonto e poi quando appena ho i soldi per il motore mi piace il motorino, quello della TV, in un altro paletto, così prendo la giro e così mi diverto un pochettino. Carissimo. Sì, dimmi, Luce del mattino, non c'è problema. Cazzo, c'è la voce, guarda quella lì, sai che ce l'aveva Natali? Noi due, vabbè, non c'eravamo neanche molti in quel periodo di Abbattino, ma c'era mia cugina Pinuccia, per esattezza, quando proprio modulava la ottava. I primi CB più che altro, va, diciamo che io l'ho pigliato nel 74, se mi ricordo male, figurati, 70, 72, una cosa del genere, parlava loro, e lei c'aveva la voce uguale, poi precisa ce l'aveva. E la voce soave, la voce soave ce l'aveva, che... E perché io male uscivo quando mi scambiavano per Claudio? E a casa tua sì, eravate uguali. Hai fatto male tu, guarda, a lasciare tutto di là, fancuffia a te, cazzo. Devi tenerti la parte di giù, sei stato tranquillo, purtroppo è capitato quello che è capitato, ma fancuffia, non ci puoi fare niente, se no... Sei stato lì, ora vanto, va bello tranquillo, la parecchiatura bello tranquilla, e non sei stato lì dove sei adesso, a sventiare con quelli del vicinato. Sì, cosa me ne frega, non c'entro il buco quando disturbo, che adesso mi dà sventiatura, beh, non dovrei disturbare più. Me lo auguro. Giallo che mi avete ripetito di sai, telefonici, di cui ci hanno messo il 5G adesso, quindi adesso non so cosa succede qua. Sono venuti già due volte perché la prima sera che l'hanno installato, non so se l'hanno provato o cosa, non andava bene. E quindi sono venuti due giorni dopo. adesso sai che sto parcaliccio, hanno installato, non so, hanno fatto dei lavori nei capi, non so che cosa, evidentemente non andava bene, cosa ne so, hanno staccato dei cavi, poi li hanno rimessi e poi hanno messo di nuovo il 4G, hanno messo, quindi ha battagliato, un casino stanno facendo adesso. Adesso dal 20 di cosa, quindi entrano i 5G in opera e siamo a posto, siamo. Speriamo di non trovarne uno ogni 50 metri in un palazzo di ripetitore. Sono i problemi ce li avevamo davvero noi, ce l'abbiamo. Facciamo riprendere a Claudio, avanti Claudio. Sei buona, l'ha partito tu io. Già ne ho le scatole piene, non sto manco ascoltando più, accendo quando mi capita, perché non ce n'è voglia, Antone. E due stanno parlando. Messa la cosa. Sono anche un po' stanchino e non ho molta voglia di parlare, proprio sto ascoltando, dai, riprendi Fofonio. Avete parlato in due, Claudio e Natalino, vi annullate a vicenda. Ma quando qua passa Claudio, Natalino no. Avanti Natalino, non ti ho capito. E per forza, ci mancherebbe che passassi io quando parla Claudio. Ma perché non ti credo, se fosse stato al monte l'avresti grattato a Claudio. Vabbè, dove sei adesso? Luigi con la cosa del genere, sei distante, quindi sono fatto anch'io. Mi hanno fatto... E io lo passo, Antonello, scusa, Claudio, Antonello. Sì, lo di Pazzamona. Dopo me lo diceva. L'unica cosa è che ho la tua industria di produzione, sei aperto. Ancora palazzi e altri non l'hanno fatto. Ci manca solo che mi buttino giù quella... la palazzina della Renault. Cioè quella specie di agglomerato della Renault di fronte allo SPI e ci fanno una palazzina di 15-20 piani e sono a posto me e mi tappano del tutto. Sì, fregatene. Quando non puoi modulare ci butti tutto e basta. Cosa? Io intanto non c'ho più niente. Già hai visto che non ho più un tubo. Prima già ne avevo di roba, adesso no. E vabbè, anch'io c'ho meno roba, non è che ci abbia tutta questa granché di... Se mi faccio i conti di ciò che ho speso, ci usciva un automobile, ci usciva, da 12.000 euro, da 74 adesso. Da lì già lo sai anche tu. Cavi, 13 dei cavi, poi lineari, la Super Regibus, la 2027L, la Mantova 1, la Mantova 5, la Mantova Turbo, poi lineare, BB 2001, quella normale, poi BB 2002, poi tutti gli apparecchi che ho avuto, cazzo, il Pace 123, dopodiché è nato i primi 40 canali, avevo il precedente, quello il primo che è uscito, dopodiché da quello è passato all'ultimo dei due, l'ultimo dei tre, cioè no, l'ultimo dei due, l'ultimo dei tre, dopodiché avevo piato il 2009, dopo il 2009 ho speso soldi per il coso, per il Kenwood, eccetera, eccetera, 1,5 milioni, mi ha regalato Claudio, figurati tu. Eccetera eccetera, e se mi faccio il conteggio ho speso sì e no la bellezza di 14.000 euro come adesso con tutto quello che ho comprato, lineari, BV 131 eccetera eccetera, e quanto ne ho avuto di roba, diciamo, non mi poteva avere, dice questa roba ti sta rovinando, mi diceva, stai spendendo soldi in puttanate per niente, vai a lavorare, mi diceva, e dopo ha detto, sto lavorando, ho detto, ma cosa stai lavorando, dice, prendi, dice, 10.000 lire, c'è ogni riparazione, nemmeno, cazzo, dice, gli altri soldi te li spendi al bar, e già lo guido, e gli ho detto, cazzo, ma quando ci venivamo al bar, in Venezia facevamo il giro, vince ognuno, non ce ne valeva una, le riparazioni, eravamo più di 20 cibi, eravamo al giorno, 20 cibi al giorno, tu immaginati, se te lo ricordo, andiamo a Carlo. Tu immaginati quello del Vai Verizzetto, ce l'abbiamo campato noi per la bellezza di 4-5 anni. Sì, dopo quando se ne sei andato tu è finita la miniera. Facevamo un... c'era, diciamo, i tavolini tutti pieni di vita, solo noi. Venivano solamente, guarda, 3 o 4 nel manicomio, se ti ricordi bene, per Monolvino. E quella ragazza che c'aveva la, quella tipa c'aveva l'abitudine di andare veramente al basso, si vedeva a un fianco, apriva le gambe e si vedeva sotto, si vedeva. Quello me lo ricordo sempre. Adesso non so se è viva o se è morta, la verità, ma comunque era così. Poi mi divertivo a fare che la verità viene zitto, a parte i collegamenti che facevo tutti i giorni, parlavo con il centro Sardegna, con la Spagna tutti i giorni, eccetera. È molto meglio di adesso, la verità, anche se quel sito lì era, quello che posso dire, era un isolato, ci entrava insieme qualche cane ogni tanto. Adesso invece, con la scusa che c'è il palazzetto, capito, adesso si riempie, eccetera, eccetera. Però la questione di voto è sempre stato un handicap lì, ma l'unica cosa che è rimasta aperta lì sono i bar. Paio di bar, il resto niente, no, né pizzeria, né, non è andato mai niente avanti. È stata sempre una zona strana, la verità. Sembrava bestemmiata, cosa posso dire? Ma... Vabbè, vi lascio che devo fare cose io. Ci sentiamo alle prossime, vi saluto tutti, anche quelli che sono all'ascolto, va. Me ne passo in QRT. E io, ciao Natalia, alle prossime, là. Ci sentiamo avanti, vabbè. Ecco, un attimo. Ciao Natalia, ben sentito, buon tutto, avanti, chi è Claudio? No, per dire non sono Claudio, sono... Uranio, buonasera a tutti, salutatori cordiali, sto facendo una prova qua in stazione. Controllo per cortesia, una buonasera e salutatori cordiali a tutti, a te Cambia. Controllo di segnale, se quasi 9.10, radio 5 è un po' chiusa come modulazione, un po' ricca di bassi e pochi acuti. Adesso faccio salutare a Claudio Di Muro, a Natalia, avanti Claudio. Sì, 5 stelle, Roberto, grazie per il mic, sì, saluto anche la famiglia, che ha fatto correttire, gli auguro una buona serata, sì, saluto anche Uranio che è entrato, buonasera Uranio, che è sentito, sì, qua da me c'è il finale con lo scala, è Radio Super 5, ti ascolto molto bene, anche per la modulazione, ripugna, ecco la buonasera. Ok, buonasera Claudio, grazie al controllo. Anche tu qua stai vado bene come al solito, e niente dai, tutto qua, va bene, non so le frequenze, qualcuno mi pare sia portato il correttivo, non so, boh. Vabbè, ripeti tu allora Claudio e fai girare come sempre con la buona serata per tutti, dai, ok. La stazione di Uranio ha modulato, a te di nuovo il cambio con Claudio e fai girare, a te il cambio. Sì, 5 stelle, io stasera sto usando SPS Console 2, stazione base di tutti i canali con le bande laterali e il microfono SPS in bellissimo attacco, queste sono le mie condizioni di lavoro e tanta quattro d'antenna. E niente, ricambio per Contonio, riprendi Antonello. E via, 9.10 sei Uranio qua, detto, radio 5 per te. Ah ok, va bene, comunque sto provando, come stavo dicendo prima, un nuovo apparecchio qua, sto usando per l'esattezza la Nikon K, ok, perfetto, riprendi Pomponio. E arrivi bene, sì, di perfetto di radio, vabbè, se microfono, con microfono normale, quindi, va benissimo. Riprendi Claudio, un attimo tu, che sta arrivando subito, 5 minuti. Sì, prendo io, sì, che stavo parlando con delle persone al computer, con dei miei amici ciclisti, sì, che come ho fatto il giro, vi ho fatto mostrarlo, avevo qua, dove sono fatto il giro di 42,7 km, 570 metri di diritto di sveglio, insomma, e l'ho pubblicato, insomma, lo stanno tutti commentando, quindi sono un po' alla radio un po' sul computer, riprendi Roberto. Come ci avrei entrato? Dove sei andato qua? Questo è il Robello, ora qui in località Purina, quindi ci ho fatto un giro lì nella zona industriale, verso Campomella, poi sono risalito, allungato fino al Vigliotti, poi sono risalito verso Purina, poi allungato dove c'è la casa, non so, là, sulla strada che va a Polizia per Panari, e quindi me ne sono rientrato, tutto ho fatto un 42 e qualcosa di chilometri, Robello, un po' di salite, insomma, spingendo con rapporti duri, fa molto bene in allenamento, soprattutto quando devi fare dei giri in salita, e appunto ti aiuta molto quando devi spingere con i rapporti leggeri, e appunto faccio questa serie di allenamenti ogni tanto, e oggi mi sono fatto un po' di salitine, e adesso la prossima settimana entro un po' di pianura anche mi faccio, e capito, hai, e tento di resistere fino a dicembre, perché oggi è una timida giornata rispetto ad altre volte che sono uscito, che c'era un freddo gelido questi giorni, e capito che mi sono trovato abbastanza bene, e che dire, il cambio per uranio, riprendi uranio. Va bene, perfetto, sono stato l'apparecchio, dai, un apparecchio che sto usando in prova, qua in stazione, niente, dai, era solo una prova, va bene, io qua rimango un attimo, devo fare due chiacchiere con un'altra gente, diciamo che mi interessa, dai, ok, non so che deve andare, lo prendi tu. Radio, fai girare, dai, a te il cambio. Sì, sì, questo è il radio. Sì, lo prendo io. Sì, oggi Roberto mi ha confermato che il microfono, il centro X dell'SD sta andando bene. Gli ho fatto dei piccoli lavoretti, ho seguito il tuo consiglio, che mi era di metterci quella roba col cotone. E avevi ragione, perché mi sono ascoltato bene. Che cavolo, c'hai un orecchio, c'hai proprio al millesimo proprio il controllo, me lo dai, e la modulazione, perché... l'ho sentito che era abbastanza nasino, insomma, come che dite tu, capito, e quando mi sono ascoltato era vuota anche la cappia, quindi l'abbiamo riuscita di cotone, insomma, va molto bene, riprendi Roberto. Sì, assolutamente, benissimo. Urano, tu probabilmente lo sai perché ti ho notato un po' cupo, perché sei col microfono naturale senza essere amplificato, confermi? Tu è andato via, vai a tu. Cappa, dai, forza, andiamo via. Mi sono distratto un attimo, di cosa stavate parlando? No, che è andato in giro in bicicletta, ha fatto 42 chilometri. Beh, colui che riesce ad andare e che ha la forza di andare, io vorrei andarci, però. Dimmi un po', Claudio, come fai sui buchi? Ma ti porti le camere di ricambio? Questo è il negativo, no, c'è una pompoletta gonfia ripara come la schiuma, che non devi avere neanche la pompa, poi mi porto anche le camere ad aria, capito, hai la pompa, che non potrebbe funzionare per la schiuma, non c'è la schiuma, come tutti, praticamente si spompa e tira sopra la gomma, insomma, e poi il giorno dopo, intanto di tornare a casa, ti fa l'allenamento e, capito, hai, mi pare che fosse un po' di 4 euro da becca, per un effetto a Sassari, e capito, è un punto bene, molto comodo, là ti legge la frutti nella gomma e sei tirato sopra il pneumatico, quindi tira sopra, rompe, capito, e quindi è una cosa molto utile, capito, sono abbastanza allenato, vabbè, faccio 150 km con la uscita di gruppo e usciamo spesso con i professionisti anche, perché questi fanno gare, questi che sono con me, io ho anche i record nelle salite qua, nella nostra zona, riprendi. Poi se la butti però la camera d'aria con quelli qui lì, con quelle sciume, e poi ci buttate la camera d'aria, vabbè, con quello che costano. Sì, c'è l'apice in mezzo a questa schiuma, cioè in pratica l'apice è una schiuma bianca e fatta tutta di l'apice, molto, ha un odore molto strano, tipo smalto di unghie quando gliela metti e capito, e ripara immediatamente il pneumatico, infatti non butti e tu non devi neanche staccare il copertone, cambiare la camera d'aria, capito, perché quello lo faccio solo in caso, in tutto la schiuma, capito, hai, è una cosa molto utile, capito, ho detto quando faccio il giro ne porto 3 o 4 dentro la sacca di queste bombolette, non so, costano poco e sono molto, molto economiche anche a comprarle, capito, sono molto utili, li prendi Antonio? Capa, una volta quella schiuma l'avevo usata per parare una gomma, ma adesso ci sono anche quelle antiforo, le viste, costano parecchio, costano un bel po', però sono utili perché non si bucano le ruote. Sì, sì, quelle, sì, sono molto utili quelle che sei dicendo tu, capito, hai, allora, se te la uso bisogna stare attenti. Secondo dove ti trovi che non funziona il cellulare, cacchio, a rientrare se devi chiamare aiuto è un problema. Sì, sì, quel è un grosso problema, è stata una volta, ma non è stata brutta perché stava facendo freddo, non ero abbastanza in forma, ma e sono rientrato per miracolo a casa, perché quando sono arrivato qui a fare la salita di Fulmina, c'era un vento, il giorno stava anche piovendo, e me la sono vista brutta 2 anni fa, perché ci sono rientrato di fortuna a casa, perché c'era un'altra bici più pesante, c'era forti più duri, e sono uscito non avendo allenamento, mi sono fatto un giro di 100 km, e non ho risentito, sono tornato a casa, ero zero cadavere praticamente, riprendi. Sì, ti conviene rimanere in zona, magari fare 2 o 3 volte il passaggio, il circuito, però rimani in zona, perché se c'è così lontano è un problemino, poi magari ti viene un crampo, una cosa, a rientrare. No, questo è vero, però essendo allenato non succede quasi mai, sono abbastanza in forma, non mi sono perso neanche una settimana di allenamento quest'anno, e quando non la tocchi per 1 mese e mezzo la bici, se la lasci perdere per 2 o 3 settimane, ti devi rinunciare a fare questi uscite col giro, poi devi essere anche ben attrezzato, io vabbè, attrezzatura già ne ho, camera d'aria, di queste cose, se qua mi porto anche la merenda, quello che fanno esso, quindi non sono a digiuno, però c'è cos'è, l'allenamento vuol dire molto, sei uscito, non sei in forma, è meglio che ti fai un giro come se eri tu, quindi ti tocca chilometri, massimo 60, ma senza esagerare, perché il fisico ne risente parecchio, riprendi Antonio? Cappa! Sì, se fai tanti chilometri comunque ti convengono delle gomme molto particolari, antiforo, perché così, sennò è un casino, Invece a Dublex un giorno, sai cosa mi è successo? Ho preso la curva e mi è uscito il Dublex, giù ma non mi ammazzo, per poco non mi ammazzo. Capitato anche a me la sera dove mi è capitato una roba del genere, la discesa, quella di Ardara, non so se ce la faccia presente, cioè una Bianchi di quelle vecchie azzurrina e un acciaio di quelle antiche, e stavo facendo una gara con un mio amico, sono sceso nella discesa quella di Ardara, mi sono proprio frenato perché stavo salendo una macchina, mi è saltato il popolare e ne sono uscito in terra, me ne praticamente mi si è staccato dal danciere, cioè quindi il popolare sono pericolosi, perché se si scolla dal cerchio e ne esce in terra, non mi è capitato, non ho discesa, mi sono fatto anche male, riprendi Roberto. A te non ti piace fare il terrato, tu fai solo, diciamo, strade asfaltate con la bici da corsa, e mountain bike non ci vai? Sì, quest'anno sì, però la mountain bike qualche giorno lo facciamo in inverno, andiamo nei corni, nei boschi, vabbè, siamo anche caduti, quindi dobbiamo fare, infatti adesso sto anche prendendo uscirci se mi invitano, perché se è pericoloso, c'era, come si dice, il limo, c'era il fango, noi in questo posto eravamo vicino a Florina, se siamo scesi troppo veloce, poi è successo questo, si è preso il limo con la ruota di dietro, lei è uscito in terra, siamo rifatti a manetta verso di lui per non prenderlo in pieno, abbiamo frenato e ce ne siamo usciti anche noi in terra, io per fortuna non mi sono fatto nulla, sono 2 grammi, però questo ha sbattuto la spalla e si è fatto male alla cosa, la clavicola si è fatto e non ce la facevo, infatti è andato fino in collo al pronto soccorso a Sassari, questo di Cargene, questo ciclista, si è fatto molto male, si è fatto, e molto mai che è pericolosa, infatti a me non è che mi piace molto, quindi... Vabbè, basta camminare tranquilli, ma a livello di turistico io no, a correre no, magari quando vado piano piano tranquillo, però è bello andare in posti per vedere, esplorare, così, posti che magari con la macchina viene male, piano piano, vai a tu. Cappa, se no chi dovevi spicciare la notizia, ti assimili da Mobuglia, la di chi voglia appena dici, a fare tutti quanti che si cose che fate, già se non recuperate, già tanti voi andare a pidare che era nel culto, se il giorno che sbaglia ci fa un bel male con quella bicicletta. A Brumonte stai dicendo? Ecco, gli hanno dato una sussa l'altro giorno, ma hai visto come l'hanno fatto? E poi quello che sembrava che stesse difendendo quel tipo, lascia perdere, cazzo era il culto, questo bugno a faccia, gli ha spaccato lo zimo, gli ha dato 30 giorni di cura, e fate conto, 30 giorni di cura ci deve stare almeno 3 mesi prima di guarire, che quando si danno così, e in più c'era, sono entrati all'ospedale e hanno picchiato la camera a me. Ma allora chi ci si buone, in chi si gosi, che a lui non gli interessa, si mette nei pasticci, si mette, cioè sono cose un po' pericolosette, sono. Cioè, quella è gente che non gliene frega niente, si fa la misura di dire a me. Non è così, no, la situazione. Già lo so, è un rischio che si prende, però cacchio, anche la polizia molte volte in questi punti ci deve andare, richiama lui, ci sono dei quartieri a Milano, a Roma, dove ci sono in mezzo alle scuole, in mezzo ai ragazzini, si muovono nei giardini, questi a spacciare, a fare altre cose pure, dai. E poi vai in quartieri tipo Napoli, Bari, di lì, cacchio, non ci pega la moto a spararti. Ma non è una puttinuta, è l'avanti di carriera, non è fatto più carriera che fuori, cosa ne ha puttinuta? A chi ci non c'è che riguarda di reputazione, no? Lasciamo perdere, va. Cioè si sa com'è, però anche le istituzioni fanno schifo, cioè o lo sanno, fanno finta di non saperlo, cioè ehi ragazzi, c'è anche chi dovrebbe comandare, a chi si? Della mia battimenti sarà stato dipeso da me, ma carriera dolce, a vero l'abbia fatto a me. Roba di giù se viene pigliato, cioè finché non li scadi bene, cioè finché non questa gente finché non la metti bene bene in riga non imparerà mai con quelle leggi che abbiamo noi in Italia, no, è perso nel vento. Ok, dai. Claudio, sì, qua c'è il sì, e in questi giorni mi devo collegare con la radio, non mi ricorda, ma se la devo fare sentire attraverso e me lo dimentico sempre con la nuova, e in questa sera lui l'attacco la faccio sentire e facciamo delle cose che ma cos'è, ricordami, è il 1000 o che cosa? Non è quello che c'è il doppio ricevitore, no? Non credo, no, non penso, perché c'è un sacco di pulsanti, non è come il 757, c'è un sacco di pulsanti questo, e se lo fate consentire questa sera, facciamo delle prove, capito, perché è un casino anche alzare la potenza, tremendo, perché mi fosse finale, sono capito, perché non la conosco bene, no, non c'è bisogno di uscire la potenza, anche con 5 watt qua arrivi forte oltre 9, non c'è problema. No, perché l'FT1000 c'ha due ricevitori separati con doppio frequenzimetro. Questa è tutta unica, non mi hanno dato niente di separato, sto solo la radio, è più grande del 757, questo è un sacco di pulsanti, cioè un casino usarla. Ogni tanto la scena mi faccio un po' di ascolto, io ho fatto due PX, ho portato con quella radio, ma poi l'ho messo da parte perché il babbo non è la mia, da tutto. Quello lì con il babbo, il 757, quella, me la sono fatto un tanto, con la voglia di farmi qualche PX, è tutto lì, ho tenuto queste vintage perché mi piacciono di più, come ti ho già detto, sono più appassionato di questo tipo di radio, come quella che sto vedendo adesso, però questa sera la devo attaccare, te la faccio sentire, riprendi. Sì, dai, io adesso vi devo salutare e ce la risentiamo, ok? Ti prendo io, ciao, tanto buon tutto, dai. Ok, anche io tra poco stacco, vai Claudio. Sì, sì, questo è il ok, dai, Antonio, con tutto il saluto, ti ringrazio del tuo CEO e ti auguro una buona serata, una buona carica quando la fai e alle prossime ti sentiamo. Buon tutto, riprendi Roberto. Sì, allora questa radio che sta utilizzando adesso è perfetta, si entra come riferimento da parte mia, ottima, niente da eccepire, per cui questa va bene, le altre mani le fai girare per non tenerle ferme, ma questa è bellissima, ti ripeto, hai trovato il giusto abbinamento sia di segnale che di microfono. Sì, questo è lei, il microfono, questo è l'SPE Console 2, è un di tre canali, come fanno laterali, è il microfono SPE CD da tavolo, quello praticamente è che si sentiva bene che stavo parlando dentro un tubo, e stasera gli abbiamo messo mano e gli abbiamo messo quella roba che mi reggo nella capsula, infatti adesso si sente la voce, mi sono ascoltato con la chiavetta, con un portatile, Roberto, si sono anche tu, ho sentito che sta parlando bene proprio con la mia voce naturale, capito, sono molto soddisfatto che ho risolto il problema, capito, appena sotto, ma neanche si sente, proprio impercettibile, probabilmente qualcosa che c'è di lì vicino, qualche cosa. Però la radio è pulita e chiara, niente da dire. E mentre quel pace che mi ha fatto sentire l'altro giorno, sinceramente si vede che la radio adattata c'ha qualche problemino, qualche condensatore o qualcosa, per cui la fai girare sì, ma per trasmettere normalmente usa questa o quell'altra, quel Sommercamp famoso. Sì, sì, questo, e quello è sempre sopra lo scaffale, quello è perfetto, quello funziona molto bene, insomma, perché quel pace, sì, quello c'ha problemi di alimentazione o di condizione. Mi sono perso, mi la 12 con la stessa alimentazione che si alimenta il Comunicat, ieri ero alimentato a 220, vabbè. Però c'era quel ronzio che sono attirato al microfono, che me la sento fa ronzio ed è il condensatore quello grande che vuole sostituito, però c'è anche un condensatore di quelli piccoli che vuole cambiato, perché ho richiesto la portante di Toccherosa, mi sono accorto, lo stavo trovando stamattina con un portatile di Toccherosa, quindi c'è il condensatore che vengono sostituiti, ma non è un problema, già ne abbiamo di quei condensatori. E capito, hai già questi lavoretti, Roberto, la radio, però è un bel apparato, e poi c'ho anche il console 1, sempre di questa marca della SPS, che me l'ha dato Claudio Sparviero, lo dobbiamo sistemare anche quello, perché c'ha le copine, quelle che sollevano i bassi, e come mi tira 2,5 watt quella radio, la devo sollevare di bassi, dopo che correggermi appena per i segnali, e capito. C'è un trasformatore anche che non è suo, quell'apparato, viene sostituito, perché l'abbiamo vista praticamente come è fatta, quel volta un trasformatore che non è suo, che viene cambiato, anche quella la stiamo tutta revisionando, la stiamo capito, e dico che questa fa molto bene, si risponde molto bene questo console 2, sono molto, molto contento, perché anche Giulio è la prima versione del console 2, perché ne hanno fatto di due versioni, praticamente hanno fatto una versione che c'è una scritta sopra lo smitter, che tira un watt in meno, questa è la mia proprio la prima, che tira un watt in più, insomma sono molto, molto contento di questa radio, riprendi. Sì, sì, va benissimo, pensando che è una radio adattata, nel senso che ha tanti anni sulle spalle, si mangia tante radio molto, molto più recenti. Vabbè, Roberto. Sì, sì. Sì, sono sempre Uranio Fon. Stavo dicendo, allora, beh, cosa ne pensi di questo apparecchio, questo nippone, cosa ne dici? Sto dicendo bene, mi ha detto la prima, sì, vabbè, ok, riprenderò. No, sta uscendo bene, il confronto lo fanno rispetto a loro, sei un po' più basso di radio, un po' più cupo, ma stai usando il microfono da palmo originale, non amplificato, immagino, confermi? Sì, no, il microfono originale, da palmo, sì, giusto. Stanno dalla grande, va benissimo, penso un microfono ti sento chiaro, forte, il segnale 9+10, per cui va bene, naturalmente con un microfono preamplificato sicuramente guadagni anche come qualità di modulazione. Va bene. Va bene, ti ringrazio, va, ok. Riprendi e fai girare, dai. Ehi, vediamo, lasciamo un attimino di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti sul 10, se no riprendi tu Claudio, avanti chi vuole entrare sul 10. Nulla, vai tu Claudio.